Letture di Radio 24. Secondo Andrea Gibelli, vicepresidente al Pirellone, occorre il lombardismo per salvare il nostro paese. Ma è un termine corretto? O forse è meglio utilizzare lombardità per indicare la capacità di organizzazione dei cittadini lombardi? Giorgio De Rienzo del Corriere della Sera è comunque sicuro: il lombardismo non ci salverà. Secondo Andrea Gibelli, vicepresidente del Pirellone, per salvare il nostro paese occorre il lombardismo. Un neologismo acchiappato al volo, vatte la pesca da quale vento di pensiero, e gettato là in pasto al pubblico, senza rifletterci su per dire chissà che. No, lombardismo è parola che si trova su un qualsiasi vocabolario. È voce tipicamente lombarda, persino per il Fanfani, che era un linguista purista fiorentino dell'Ottocento. Manzoni, per dare una veste unitaria alla lingua dei promessi sposi, andrò a sciacquare i suoi panni in Arno e si liberò per gran parte degli istintivi lombardesimi, voce più arcaica di lombardismi. Dunque Gibelli non ha coniato nessun neologismo, ma ha adoperato in maniera impropria un termine già in uso. Anche nel suo senso traslato il termine rimane infelice. Si dice lombardismo, l'hanno usato Linati, Soldati e Piovene, per indicare un insieme di caratteristiche proprie delle popolazioni lombarde, con un senso però di eccessivo campanilismo. È vero che i lombardi ci sanno fare. Sono intraprendenti, concreti e fattivi. Ma non è detto che sappiano insegnare agli altri come fare. Si devono porre come modello, perché come maestri sono un po' impazienti. E allora perché non usare piuttosto lombardità come termine da esportazione per significare lo spirito di capacità organizzativa della regione, se proprio si vuole prendere a carico le sorti del paese? C'è un termine in uso che potrebbe dare la percezione del saper organizzare le cose, ed è lombardata. Indica una fila di muratori a distanza di qualche metro l'uno dall'altro che si lanciano mattoni o coppi facendogli fare bei voli a palombella per trasportarli da un posto all'altro. Ma lombardata non ha un bel suono. Peggio, ha brutte assonanze. Lombardità va bene, signor vicepresidente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il lombardismo non ci salverà, ma il vocabolario lo approva, di Giorgio De Rienzo, dal Corriere della Sera, di lunedì 31 gennaio. Letture di Radio 24. Vivere senza TV? Forse si può. Succede a Offemont, piccolo comune che dista 362 chilometri da Parigi. Qui dal 23 al 30 gennaio si è tenuta una vera e propria settimana no video per provare ai cittadini che fuori esiste anche un altro mondo. Vivere senza la TV? Forse si può. E magari si vive pure meglio. A Offemont, nell'est della Francia, sono convinti che spegnere lo schermo accenda la vita. E infatti da 3 anni il comune invita i suoi amministrati a dimenticare il telecomando per una settimana. Eroici davvero! Offemont non è Parigi, dove le serate senza TV passano benissimo. Si tratta di un piccolo comune della Franca Contea, 3.463 abitanti all'ultimo censimento, un villaggio dormitorio vicino a Belfort, nei pressi della Svizzera, e si suppone altrettanto noioso. In effetti, le attrazioni locali si possono riassumere in una parola sola. Nessuna. Parigi dista 362 chilometri in linea d'aria, e molti di più come atmosfera. Una volta rimirati per bene i Vosgi, l'impressione è che non ci sia molto da fare, specie nelle notti d'inverno che qui è rigido assai. Insomma, la TV pare proprio indispensabile. Invece, gli amministratori locali, che sono poi delle amministratrici, perché la sindachessa si chiama Françoise Bouvier e l'assessora anti-TV Brigitte Chevillat, sono invece convinti che gli Offemontois, così si chiamano gli amministrati, debbano pigiare lo stop sul telecomando, togliersi le pantofole e uscire. Tutti gli inverni la gente si chiude in casa, spiega Chevillat. La soluzione più facile è mettersi davanti alla televisione. Volevamo stimolare le coscienze, provare che esiste un altro mondo. Detto, fatto. Chevillat & Company hanno esposto all'ingresso del borgo un grande cartello, disegnato come un piccolo schermo, dove si annunciava la settimana senza TV dal 23 al 30 gennaio. Hanno organizzato al centro polivalente una serie di attività dove c'era un po' di tutto, dalle lezioni di cucina delle Antille al torneo di ping pong, dal corso di tecnica circense al tè danzante, dal mercatino alla lettura delle favole. A Offmont, la settimana no video si è conclusa sabato con una cena antillese, quindi è arrivato il giorno dei bilanci. Li ha tirati il Parisien. Risultato: la popolazione ha retto, anche se la resistenza c'è stata, e ha trovato il suo epicentro nel locale Bar Sport, dove cinque schermi, cinque, sono rimasti accesi in permanenza sulle partite di ogni possibile sport e soprattutto sulle corse dei cavalli, che in Francia imperversano su ogni canale e giornale. Però, a parte le solite mamme che ammettono di parcheggiare il pupo a lobotomizzarsi davanti allo schermo, la maggioranza dice di aver tenuto. E la minoranza, che non ce l'ha fatta, confessa di aver acceso con i sensi di colpa, di nascosto, o per impellenti ragioni, tipo Svezia-Francia di pallamano, un'altra incomprensibile passione gallica, per finire con una nota commovente. Le due famiglie che hanno scoperto solo durante la cena comunale di essere vicine di casa, prima, ognuno per sé e la TV per tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il paese che vive senza la TV di Alberto Mattioli, dalla Stampa, di lunedì 31 gennaio. I matrimoni misti negli Stati Uniti d'America stanno cambiando il volto delle nuove generazioni di americani. Le nozze multietniche sono al 9% e la cosiddetta mixed generation sfiora quota 30 milioni di persone. Dicono: siamo i figli di tutti e di nessuno. Siamo il popolo di coloro che vivono e si sposano felici nella zona d'ombra fra le razze e i colori, dove i confini del bianco e del nero, del rosso e del giallo, stanno scomparendo per creare un nuovo uomo americano. La persona di razza mista, ormai milioni, che non si riconoscono più nelle gabbiette dell'etnicità da censimento. La realtà crescente del nuovo Homo Americanus è questa, formata di sangue asiatico e africano, caucasico e indio, inuit e vichingo. Sui moduli del censimento alla voce razza, il povero compilatore deve essere impazzito. A pagina 9 si poteva scegliere fra bianco, nero americano, nero africano, indiano americano, indiano asiatico, giapponese, coreano, vietnamita, hawaitiano, guamaniano dell'isola di Guam, chamorro, filippino, pakistano, hmong, laoitiano, cambogiano, thai, tongano, fijiano, ispanico, chicano, messicano, portoricano, altri ispanici, argentino, cubano, colombiano, nicaraguense, una lista che si chiudeva con una bandiera bianca, una casella da riempire a scelta con la propria autodefinizione razziale. Ma non oltre i 19 caratteri, per favore, abbiate pietà. Sta dunque diventando felicemente impossibile richiudere la macchia umana che si espande attraverso i matrimoni misti, amori, adozioni, secondi e terzi matrimoni, nella comoda segregazione in bianco e nero della quale parlava l'antropologo svedese Gunnar Myrdal. Tempi crudeli ma semplici, quelli nei quali al massimo il governo si sforzava di arrivare fino al quadrone e all'ottarone, alla persona che avesse anche un solo bisnonno africano, per essere catalogato come negro. Nei nuovi club per giovani senza identità razziale definita si gioca a questo innocente scambismo del DNA. Se risentimenti ci sono ancora, si indirizzano magari contro Barack Obama, che nero si definisce ufficialmente quando potrebbe, con pari diritto, dirsi bianco, come bianca era la mamma. Scuotersi di dosso la paura di chiamarsi l'un l'altro meticci, non più nell'accezione dispregiativa dei colonialisti bianchi, richiede il coraggio di uscire da un guscio protettivo della identità precostituita ed ereditata. Nel club per sangue misti dell'Università del Maryland, alle porte di Washington, soprattutto coloro che hanno la famigerata goccia di sangue nero nelle vene rispondono al New York Times che nel non dirsi più afro temono di rinnegare la storia dell'emancipazione e della sofferenza dei loro antenati. esitano a buttare a mare, insieme con gli schiavettoni, lo stigma, i pregiudizi, anche quella black culture che tanta parte dell'America moderna ha costruito. Ma neppure questi comprensibili timori possono fermare l'oceano che sta rimescolando le gocce, onda dopo onda, come se il leggendario e non sempre vero melting pot, il pentolone, si fosse rimesso a bollire. I matrimoni misti sono ormai 1 su 8, calcola il centro studio Pew. Il triplo di quanti erano nel 1970, quando il crimine della misgeneration, dell'imbastardimento razziale, fu abolito dalla Corte Suprema. E i matrimoni non calcolano ovviamente le coppie di fatto. Quasi l'8% degli abitanti censiti si autoclassificano come misti e dunque sono ormai almeno 25 milioni. I pessimisti, che non mancano mai, come il professor Rainer Spencer dell'Università del Nevada, parlano di una balcanizzazione razziale dell'America. Temono la nascita di una nuova tribù che serva ad aggiungere un altro strato alla torta mille foglie della nazione. E questo è il timore soprattutto delle minoranze tradizionali, degli afroamericani, che rischiano di vedere i propri diritti, le prerogative così dolorosamente acquisite, diluiti nel mare del «siamo tutti un po' di colore, dunque nessuno è più colore». Notano che le unioni di maggior successo sono quelle fra asiatici e bianchi, ancora una volta saltando sopra gli afroamericani e i figli di coppie in bianco e nero. Ma per ora il popolo dei figli di tutti e di nessuno si diverte nei suoi 20 anni. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «I matrimoni misti che cambiano l'America» di Vittorio Zucconi, dalla Repubblica di lunedì 31 gennaio.